batalo. M'appelle passi mamma, dalla la famiglia passo va. M'appelle passi mamma, chi ta capo male qua sa chi ngaye. M'appelle lì ca chi ngana busa calo fondo mi si. Dalla le la yo, rabetelie. Jeli Luau, Max Ungoni, na Dallas. Rendez-vous yote, tuonane kwa mere shamufa. Na la référence, wapi Germain Gobila, Clara de Bruxelles, Montana Kabumba, Eric Kenzo. Bamba doma, yola nina yukaka, maloba yankala kola, yola nina yukaka, malobe koko tindi, kundumba beza la kana sukana yangwe, mwe, lo pitalo, tope si metieli. Kepangala na Suisse. Mina kupenda sanara, shikiki teloe, maluka yere, rita mabanda. Passi mamma, chi tocca con mane passa chi ingaie, ma balla lì fa chi ingana, pussa calo fondo mi si, dalla lello io. Bye. Alain.